Job 24. L'opportunità di oggi ci porta a lavorare a contatto con la natura attraverso un mestiere singolare che può sembrare d'altri tempi, ma che in realtà è molto richiesto dalle aziende vitivinicole, e mi riferisco al mestiere del potatore. Ne parliamo perché Marco Simonit, agronomo, insieme a un collega ha fondato la prima scuola di potatura in Italia. I due corsi inaugurali, organizzati in provincia di Siena e in provincia di Cuneo, si sono da poco conclusi, ma altri partiranno quest'autunno. Ma perché proprio una scuola per potatori? Sentiamo Marco Simonit. Perché in Italia purtroppo a livello scolastico, educativo, quindi mi riferisco anche alle scuole tecniche, no? Non c'è una materia che si occupa in modo così approfondito delle problematiche relative alla potatura, in particolare della vite ma anche di altre piante arboree. Quindi la necessità, secondo noi, di creare sul territorio la possibilità per tutti, quindi dagli operatori professionisti fino agli studenti, agli appassionati e curiosi, di accedere ad un corso che gli dia la possibilità di avere un approccio con la pianta che sia di rispetto nei confronti della pianta, in modo tale che quest'ultima possa vivere in modo longevo e sano per un numero di anni che sia il più alto possibile, in sostanza. E poi, per quanto riguarda l'aspetto dell'occupazione, io ritengo che, facendo per parte il potatore di quella categoria dei mestieri manuali, credo che ci sia in futuro uno spazio enorme in tal senso, anche perché in questo momento le aziende vitivinicole italiane hanno bisogno assolutamente di queste figure che sono a tutela del patrimonio viticolo delle aziende, perché se abbiamo la possibilità di invecchiare i vigneti e quindi di far durare il più a lungo possibile una vigna in modo sano, produttivo, questa sicuramente darà anche dei grandissimi risultati nel medio-lungo periodo in termini di produttività e di qualità, e quindi questa va a diretto beneficio del vino che si otterrà. In questo momento chi fa questo mestiere sono circa 250.000-300.000 persone in Italia che comunque potano nell'ambito delle aziende. Nessuna di queste fino ad oggi ha potuto usufruire di una formazione specifica, e quindi nel nostro piccolo a noi piace pensare che piano piano nei prossimi anni si possano creare sui vari territori italiani questi centri di formazione dove uno che vuole imparare un nuovo mestiere o uno che vuole migliorare il mestiere che sta facendo abbia la possibilità di accedere a questi corsi. Quanto guadagna mediamente un potatore? Un potatore in questo momento, se formato e capace quindi di fare proprio lavoro in modo professionale, può guadagnare, diciamo, uno stipendio tranquillamente equiparabile a un impiegato di concetto. Un sito sulla scuola per potatori sta per arrivare. Nel frattempo, informazioni a riguardo si possono ottenere scrivendo a preparatoriuva@preparatoriuva.it. Ed è tutto per oggi. Grazie per l'ascolto. A domani con Job 24.